nel Gran Cono Valsoia. Che mi hai svegliato, eh? O dico il numero di telefono? Aspetta un attimo, sto controllando. Allora, VG, allora una VG, una VG da 15 watt, tipico di modulazione da 15 watt, vediamo un po' così, o 6 watt, no, in PEP. Gara gara. Eia, la sta andando bene, sì? Ehi. Oia, mamma mia. Cazzo, un duro rivela nei barcheggi, cazzo, non so come tu da tagliarmi la macchina. Perché c'avevo il cane e mi è venuto il dolore alla gamba, rovinati. Se fisco che arriva a 6, più con modulazione, 5 watt tondi tondi, spaccati proprio. No, il mio l'hanno fatto a 3 watt, l'hanno fatto, forse per l'omologazione, capisci? Ah, 3 watt. Sì, non dà di più. Ah, è fatto così, è anche c'ha la LC chiusa lo stesso, perché mi sto usando le MB più 4, però non amplificheggia come ti deve amplificare, compreso? Ma lo stesso a radio, lo fanno apposta. Quello lì una volta che lo apri da LC esce più forte, ma va bene così, eh. Prova su canati di watt. Adesso ti sono. Oh, stasera ne ho. 1 e 1. 1 e 1. Ecco qua. Sono 5 watt. Aspetta un secondo, lascio la portante che c'è qualcosa che non va, aspetta. Fai la trattura. Facendo di fatto, poco a poco. Salito. Ah, ecco. Mi tocco il microfono e scende un po'. Oh, quello può essere? Ma perché i negativi c'è, perché? No, allora ce lo faccio così. 5 watt, ok, tocco il microfono. Anche se mi avvicino, e scende un po'. No. E scende a 4 watt. Siamo al microfono, sai, devo fare 5. Vai a comprenderne. Oh, di là a me. No, mi basta che mi avvicini, No. E scende. Poi questo capo che mai non è schermato bene. Può darsi. Boh, cosa adesso? Non lo posso sapere. Sto pensando che sia lo spezzone, boh. Può darsi. Oppure non è l'alimentazione sufficiente, boh. Fa bello giambo. Ma cosa, lo spezzone? Per il C50 tu quello ufalo, più grosso. Cambia, che può darsi che sia messo male lo spezzone. Almeno... Aia, aia. Sto cercando la forbice e non la trovo. Maledizione, soave. Esci a vedere. No, non c'è neanche qua. Magnata Sirani. Sirani magnata. C'è l'altra! Quanto può essere? Ha messo lo spezzone. Aspettavano più watt. Ciao, se mi sta dando 15 watt mi sta dando. Non mi fa quel problema. Se non metto lo spezzone, A tale strada ti dà 15 watt. Come mai ti dà 15 watt se ne dava 5 solo? Vuol dire c'è uno spezzone che non andava bene. Capito. Allora, facciamo una cosa. Siamo in... Allora, così la VG. Se la VG mi dà 20, oltre 20 watt. Ora. Sarà 20. Ora. Allora, scala 20, 1, 2, 3, prova, 20 watt, 20 watt mi saranno a tali. Stavo spezzone, stavo avendo problemi. Stazionarie, 1 e 1. Evidentemente c'avevi lo spezzone che era andato a fanguarla, capito? Se adesso li sta segnando i watt. A me più di Guido non mi dà di scala 20 anche il mio. Stazionarie. Vabbè. Scala 20 anche il mio. Guarda la foto su WhatsApp. Però abbassalo mi. Fagli dare 5 watt, no di più. Perché sennò quello è monofinale l'apparecchio e il finale soffre se gli fai dare tutti i tuoi watt. Così era la taglia, se lo ti dico. Ma sono troppi, mi sa che caldi troppo. Dissipatore non ce n'è, no? No, dissipatore non ne ha. E allora abbassa, è troppo basso. No, ma non voglio proprio guarda di smontare nulla. Se lo devo smontare per venire i tappi, i coperchi, boh. Infatti. Ma un altro ne hai di quello lì, come il mio? No, non lo so, comprato nuovo, ecco perché te l'ho dato. E a che cosa va? Romeo è nuovo nuovo. Natalia, non so voluto comprare nuovo perché a me piace la cosa nuova. 3.900 mi prendo, mi compro un baracchino nuovo. Se qualcuno che lo vuole, me lo prendo uguale a tuo, nuovo, però con la pellicola, lascio la pellicola, lascio come le gatto. E io non gliel'ho tolta, no, dai tappi, gliel'ho lasciato così com'era. E io la giù, solo piazza due bu. Ma io ho il motivo per non toccarlo, capito là? E non mi tocco, questo rimane sempre così. Infatti anch'io se me lo compro lo lascio così, non lo tocco. Conto da 3 watt che se ne affutti, poi magari ti attacco qualche aiutino. Meglio lo pilota, più basso è più bene lo pilota, perché questi apparecchi hanno il difetto che non hanno dissipatore, hanno un finale solo, non è a 2 o 3 come certi altri apparati, che ne hanno uno di seguito all'altro, che uno pilota l'altro. Io varo, lo io varo un bre pilota e rubinale. E uguale al tuo praticamente. E così è, per quello non vogliono alzarti più di 5 watt. Ma se no rubinare casi dru. Sì, ma già faccio passaggi corti io. Sì, infatti. 15 watt ho cantudine e denti, sono bemmi. Beh, a scala 20, mi picchia su 10, sono 20 watt, il doppio. Capito? Se la scala 200, non mica sale. Aspetta. Allora, scala 5, vedi? Scala 5 va a picchiare in fondo, sbatte proprio l'ago, no? Allora, per non fare danno, scala 20, si 20 watt, oh là, 20, 20, 21, boh. Il nutaggio. Poi mai da un rosmato che c'ha, è nuovo, però voglio un gioco, boh. No, che quelli segnano bene. Vabbè, comunque me l'avevo ordinato nuovo, capito? Dentro la busta, dentro la scatola, l'ho levata adesso. No, io gli ho messo un coso di gomma piuma sopra l'apparecchio e sopra ci ho messo il rosmetro per non graffiarlo, capito? Ah, poi quello già è nuovo, la palina è troppo forte, mi ha detto. Cazzo da cieca! Cazzo bianca bianca, santa e bella! Avrei voluto fare, lo sai cosa? Le luci dell'alimentatore così, perché sono gialle. Anche. Vabbè, ma lascialo così, se non toccarlo, se non fai danno, non sa mai. No, lo lascio così, cosa me ne affrutti? Mi dà più tutti così, il riduttore da RG58. Cavolo, adesso devo tutti i dati, praticamente il filo mi gioca. Per quello stava andando male. Perché la calza, se tu c'hai il riduttore, vorrebbe saldata pure, capito? In modo che faccia sempre massa bene. L'ispezione di RG58 è un casino se non va nel riduttore. Se usi l'RG58, l'H155, io per esempio mi ho fatto qualche ispezione in H155. Ah, ho capito. Vabbè. Sì. Lo lascio in PEP. Allora, in PEP sono 5, no, 10 watt, Natalia, dai, 10 watt in PEP. In AVG sono, capito, di più. In PEP sono 10 watt. E comunque non si, in AM e PEP non si devono misurare. In banda laterale solo. Infatti la VG adesso. Comunque sono degli ottimi strumenti quelli. Quello dai vaghe AVV che mi hanno sequestrato era un mostro, che 150 euro bruciava. Ultimamente di male, non so dove metto le cose. Ultimamente sto uscendo di testa, dove metto le cose, non lo so. Sono la mascherina, non la trovo più, quella lavabile, me l'ha fatta mia cugina, sparita. Me l'ha fatta in casa, non la trovo più. Si è giù messo tutti i ribunti di Rudraba, non avevo tutta la serie. Di chi ti dorà, dimmi. Poi c'erano quelli per il muro, che li avevo portati qui in campagna, non ne ho lasciato. Boh, chissà dove sono finite. Mi servivano l'altro giorno, Nisma. Casino Natale, casino. Mi è panizzata la rubista. Nuova ruba. Ah, quella dell'elettricista? E allora? Ma ho comprato la bricola, è bella, me, 20 euro l'avevo pagata. Quella semi buona, là, non è delle migliori, però già taglia, è perfetta. E già ce l'ho l'altra, quella buona. Anche questa era buona, erano tutte due di lusso. Avrei ragione a gassetta, non devi aggiudicarci a vitti da elettricista, capito? Già mi tagliavo con la tagliolina, maledetta, ragazzi. E se no la taglierina non va giù, vedi, che c'ha le punte, le lame che si cambiano di lusso. Vedo che appena tagliato su queste taglierina, per carità, ma... Luca, quando fai così ti temo io. Ah, pure qui la vuoi pensare, no? A Bortronite, no? Devo tagliare un filo con la taglierina. Ci ti cabureggia, guai. Sì, cazzo, me la giù il caffè a Travagliendi, altro che, mi ho pigliato il braccio, c'è nel braccio, cioè, mi ho 4 punti lì, ma sta bene, meno male che era una tacchetta aperta, ci fosse stata due, ui, non so che fine avrei fatto. E una lametta, mio, so di grido. Infatti già mi è andata bene, va. Mi ho messo anche i punti senza anestesia, che dolori, guarda, per carità, diciamo, non ne abbiamo, cazzo non ne abbiamo, ma io ho visto le stelle, già mi faceva male, pensa tu, infilandomi l'ago, mamma mia. È un casotto, sono attrezzi pericolosi, mamma mia, mia moglie dice, ne andendi, era ora. Vabbè, se puoi uscire, esci. Beata chi può dimisciava. E beata chi può camminare, io che non posso camminare. Ma lo sai i posteggi che vengono nel Ciumanzano, quando so che ci tu curgani. Mi è giunto questo dolore, guarda, non sono potuto andare a recuperare la macchina per mettermela qua vicino, perché mi dovevo collegare anche l'alimentazione per il baracchino, che mi serviva. Un'alimentazione, perché le avevo ma tutte tolte. Questa con... capito. Casino Natale, quando vado dolore è un casino. Ebbene, non puoi fare niente, con una cura, boh. Mi intesera è tagliare la gamba. Ah, ti amputare. Vai, bastarda. Aspetta, sì. E dal dottore devo andare a vedere cosa mala sorte ho, mi ordinerà qualche risonanza magnetica sicuramente, ma non penso di averla legna al disco, se no avrei avuto il dolore fisso, io penso. La schiena l'altro giorno già ero gribbendi dal mal di schiena. Fai, a me. Sono più giovane di te, ci soffro come una bestia. Ma io forse tutti gli stravizi che ha giù fatto. Oia. Perché il nervo già mi tira dalla gamba. È il nervo proprio che mi tira, ecco perché sto pensando di avere l'ernia del disco. Magari una punta, non lo so. Però bisogna fare la risonanza per essere sicuri. Almeno sai con cosa curarti. Per forza, devi fare la risonanza magnetica, per forza. L'unica è quella. E speriamo che non me la diano fra 6 mesi la cosa, non da pagamento. Mentre ritiro la pensione non da pagamento e mi rapporto qua. Non posso stare così. So che più di un anno così. Non può stare, no, non sta scherzando. L'altro giorno sono andato con Pomponio mio a Città Mercato, perché dovevo prendere quel decoder. E non venire anch'io venuta. Ha giù fatto la strada a scini da Città Mercato, la gru di Puria. Non potevo camminare. Mi già l'ha visto il pompugno come ero ridotto. Me lo posso immaginare. Infatti siccome l'ho sforzata un bel, anche il mal di schiena mi è venuto. Dopo, la sera non potevo stare del mal di schiena. È un casino Natale, è un casino, quando è così è solo male. E infatti non puoi travagliare, non puoi fare un cazzo quando è così, guarda, Gesù Cristo mio, meglio la morte. Poi mia moglie mi assilla, mi guarda, è una cosa cazzo che non si grida. Non è solo tua moglie, tutte le femmine assillano. Se mi ha detto Buru, tu non c'hai niente, stai fingendo, dimmi tu. Se posso fingere una cosa del genere, mi sono condurrato molto il comandante, Crugano. Se ti dice così, allora va bene. chissà che non l'ha giocato mai una cavanata. Cazzo, mi va, guarda, mi va, mi butterà, lui io non lo so, appunto brutto mi sorta questa. Ma vabbè, le mani lascia tempo che troppo. Ti gioco di zende che ti mi ritratta da mano. Sono io che mi sto controllando, perché c'è cazzo, guarda, si è lasciato la canna dietro, l'abbiamo ammazzato a colpi. E poi sei rimasto un vedo un po'. E allora, che giramento di balle che sono. Io deve se le ha fatte per rompere le scatole a noi. A giudizio suave impressione. Ma suave, suavemente. Come? Soave, soavemente. E allora? Ma tu lo sai che soavemente? Cazzo di... una scena. Citate Concetta. Sì, era ora. Ho detto vattene che almeno non hai niente da fare, che almeno non ti vedo, perché solo a vederti mi fa incazzare. E da poi ci magari sei solo e... Guarda, avrei preferito stare da solo. Avrei preferito, almeno non mi disturbava nessuno, cazzo, ero stato in casa mia in campagna, mamma mia. Beh, c'è ancora te passi parati. E pensandoci sto. E ognuno a casa sua. Se non stai bene. E non stai bene, no. Quando uno ha di rompere i catturi così non stai bene. Chissà che non ti vuoi arrabbiare da di vas arrabbiare a forza. Caglia di muda romanco. Invece chissà no, tu sei bito di nemanco. Ehi, Tommaso, tutte le donne sono così natali, non è solo tuo mogliere, no? Tutte le donne sono un giramento di balle. Vabbè, me ne andavo solo per andarci a letto e poi ognuno in casa sua, basta. No, sono qui, se una cosa mi piace via tutto, a farti compagnia, a fare cose di casa, a preparare il pranzo, tutte, non sono a letto. No, non funziona così, perlomeno per me no. A me funziona così, mi rivolzio Romagna. La burzia mi rivolzio. Gesù Cristo mio, pur di non avere il rompimento di scatole, perché mi passa con la carta avvetrata, la carta avvetrata mi le balle. Vabbè, tocchiamo quel tasto. Non ti guiva mai, Luca, guai, perché il peggior sbaglio, come la sposi, sei rovinato. Sei arrovinato, sì. Ah va, è tutto amore, amara, cazzo, ui. Quando sei fidanzato, ma quando sei cuiovato. Oi, oi, oi, oi. Ehi, vabbè, poca differenza, vabbè. Poca differenza, cuiovato, io sono questi inganni, io sono quelli di dire. Ed è uno, ha bisogno che sta 12 anni e non la conosco ancora. Ma te lo vuoi immaginare, 10 anni. Dopo tolgono tutte le malagagne fuori. Gli artigli. Non lo dia paura noi, Luca. Non lo dia paura, noi siamo buffonendi così, però è così. Cazzo, da poi di 10 anni la giù dovuta a mulla. Devo dire che casino. Chissà me ne fendi scillucci. Invece non impiegare come te posso amare, no? Sì, in due tempi. Non l'avevo mai creduto che passava quella carta vetrata a scartavetrarmi le balle. Scusando la frase. Però sono così. Quando sei fidanzato tutto andava, cazzo. Ma da voi. Quando cominci a convivere sei rovinato. Perché comincia a romperti le balle. E questo non va bene, quest'altro non va bene. Cazzo, non mi aiuti. E allora ti do cagato, aiutala. Cazzo, è una cosa, guarda. Non me lo sarei mai aspettato. Sì, ma già ho imparato, già. Ma sono tutti i problemi di voi, non è solo un mulieri, no? Tutti, è Natale. E lo so che sono tutte così. Io ne ho provato parecchie e so cosa sto dicendo. Tutto va bene quando tu non vivi con lì, che ognuno a casa sua. candura vera, cazzo, la vuoi proprio vera, però da voi, come ti dico io, vedi, sei arrovinato. Allora, Nino, mi aiuti, e allora tocca magari aiutarla a lavare i piatti, a cucinare tuni, e ui. Chi sa da voi non sapeva cucinare, e cucinare in diavà, a chi sennò prima non sapeva manco cucinare. Vabbè, comunque la parte, non so Natale, ti capisco, sono, diciamo, nella stessa barca, nella stessa barca, solo che adesso me ne sto un po' a casa. Ma non perché non voglio stare con lei, però ho anche la mia libertà, capito, di fare le cose. Perché una volta che sono lì, perché mi posso stare attaccato al baracchino. E il tempo per lì poi non ce l'ho. È un casino, non è facile, lo so. All'inizio era facile, molto, ma poi, quando passa il tempo, più va più diventa difficile. Perché c'è la convivenza, c'è questo, c'è quello. Purtroppo è così. E molte volte devi sorpassare su certe cose, devi sorvolare per non bisticciare, capito? Lo so. Me l'ha detto anche mia zia. Tu se sei incazzato lascialo perdere, vedrai dopo 5 minuti gli passa. Mia zia vira di tubi. Allagami in pazzi. Beh, un cavolo. La zia sarebbe quella di Vegas Eletta. E zia Iola è la cognata di mamma. Mira di tu, a chi mi conosci, mi conosci da pizzino minori, non lo so qui. Sei incazzato, da carissare, non gli rompere le scatole, vedrai che si calma. Perché mi conosce bene mia zia, no? Gliel'ha detto, perché gli ho sentiti parlando al telefono, no? Da carissare, chi è tu quando è arrabbiato, a voi 10 minuti ribassa. Però in 5 minuti da carubigli. Non so, Natale, purtroppo se vuoi fare. È un casino. Vabbè, comunque. Poi lei lo sa che io non mi posso adirare, lo sa, perché lo sa. No, mi fa incazzare dubbio. Perché dimmi bene un infarto, vedo io un tucato e crepo. E tu basta, ancora ti usci bene, ti zisci, mi lunga e ti zisci. E l'unica è perché io non posso camminare, capito là? Guarda, se risolvo l'affare di camminare, me ne esco almeno, cazzo, e torno a ora di cena e ora di pranzo. Non vi tocco più in casa. Gesù Cristo mio. È l'unica. E risolvo l'affare di camminare, me ne esco, mi prendo la macchina e mi avvio. A me ne voglio andare a Platamona, a vedermi Romario o a Picà. Anche. Almeno non la vedo e non la sento, la vedo solo quando rientro a casa. E lì non mi può rompere le scatole, spengo il telefono, così non mi può manco telefonare. Sono più arrabbiato, sì. Sì, mi ha rotto le balle in una maniera, nessuna donna mi aveva rotto le balle così. Quando si muore la femmina rompi balle, non è solo tuo moglie, me ne sono pure peggio, sono che si maneschi, buro. E infatti, almeno questa è brava in quel senso, aspetta un attimo, mi stanno telefonando. Oh signor, è che qua, adesso lo metto qua, questa studia. Ho finito di telefonare. Telefonata breve e concisa. È la tua moglie? No. Ok. Tutto è bene quel che finisce bene. Ma dimmi tu. Neanche Fabio ci è riuscito con lo strumento a piazzarmi quella parabola. Non piglia, è troppo stretto il vicolo. Ciao, tra due che mi sei trasferito in campagna, tra due giudizio in 5 minuti va giù in campagna, quando l'ho piazzata a puntarla, ci ho messo 5 minuti, ma dopo sono andato, mi ho comprato l'altro illuminatore e ne vedevo due di satelliti, però in campagna è tutto ribaru, pure in terra la budi ubuni. Natalino! Oh! Sono arrivato! Sì, mica sto scendendo. Aspetta, Luca, che devo scendere a dare una cosa a Riccardino. Ok. zona Sassari, buongiorno. Ciao Antonio, Luca sono, mi senti? Yeah, buongiorno Luca, per Barracuda, stazione mobile, zona via Milano. Ti ascolto, da un po' bassino sì, ma ti ascolto, non c'è problema. Tu dico che se sei a Manetta, va bene la zona, alla fine, mi... prendendo piccoli componenti da Fusaro, che mi sto restaurando un alimentatore enorme, ho preso tutti i componenti, anche funzionava lo stesso, però li ho presi tutti nuovi, penso piano piano mi assillo a saldare e di saldare e saldare. Aspetta, ho un piccolo problema, mi ascolti? Sei a voglia, fortissimo, forte e chiaro. È un piccolo problema di massa, boh. No, vabbè, forse in macchina qua non si vede, no? Ti sento benissimo, super squillante la voce. Sono tu che sei in ruota? Vabbè, questo è il commutatore che me lo sta creando. Praticamente mi mancava un po' l'audio, ecco. Faccio messo il cavo diretto dall'antenna. Sì, adesso ti apporti sempre ancora più forte e fondo scala qua. Ma anche la macchina ti sei messo? Ce l'ho sempre avuto, solo che non funzionava bene, allora dai, mi ho messo uno vecchiotto, nel 1977, un vecchio Midland, di quelle a tracolla, l'ho un po' modificato, decodificato e me l'ho piazzato in macchina, sì. Piccolo, comodo, in AM, punto e basta, niente FM. E ripeto, ero da Fusaro, stavo comprando dei componenti, mi sto restaurando un alimentatore che è enorme, quanto un carro armato, e piano piano mi assillo a revisionarlo, anche funzionava lo stesso, però ci sto mettendo i componenti nuovi. Ah, ho capito, cioè intanto questa specie di pernacchia, così fa, Ma quale, il mio? Sì. Non so. O forse era troppo amplificato, forse, perché c'è un microfono amplificato a batteria. Magari c'è stazionario, ne hai? Stazionario, sì, 1-1. No, ne hai. No, è perfetto, sta bella tarata, fate il cavo, la stessa misura, no? Ho tutto bene, ben sistemato, dipende anche dalla zona. Adesso sono qua in via Budapest. Solo tu ci sei in ruota. Però là, se c'era un attarino, adesso facciamo delle prove qua. Mi ho fatto uno spezzone nuovo, però è il commutatore che mi sta creando problemi. Ma dovresti controllare quello alla fine, mi sto andando qua in un ufficio. Dovrebbe essere aperto e poi rientra alla base piano piano, lì accendo la stazione fissa e una chiacchierata, una saldata, dai, passo il tempo. Allora, non sta lavorando Antonio? Sì, lavorando la sera, ho già riposo, la sera o la notte, dipende. Ah, mezzugà, meglio così. Per il momento, qualcosina già la stai facendo, sì? Sì, da qualcosina. Qualche riparazione così di qualche telefono, qualche tablet. Sì. E ripeto, fa lavoro un po' strano, dai. Molte volte ti esce di botto, così molte volte non ti esce niente. Sì, perché la gente poi le cose le butta, preferisce comprarle nuove. Quello già è vero. Risponde la segretaria. Niente, non funziona, io rientriamo a casa. Sì, quello già è vero. E dipende, ma l'ufficio di collocamento non è aperto, domande in comune, non ce ne sono adesso, non c'è niente in giro da poter fare domande, chiedere, non ti stai informando? Io poi a me mi riferisco, ho capito, ma quanto so io non c'è niente. Ciclicamento, tutto chiuso, boh. Qualche domanda, rimborsi statali, sai come funziona? Con questa storia del virus, aiuta le famiglie, tutto quello che gira, quello sto chiedendo. Da quanto so io non c'è nulla, poi boh, non saprei, ti dai una palla. Dritto. Adesso da Fusaro ho preso 25, 16 condensatori, cioè questo alimentatore, 16 condensatori, poi una resistenza, ho preso delle resistenze ceramiche, 6 resistenze ceramiche, 13 euro in tutto speso, dai, non è molto, e glielo revisiono tutto. Quale switching? No, un alimentatore di quelli vecchia data, guarda, minimo pesa 4-5 kg, è enorme, 13,8 volt, 25 ampere di vecchia data, è spaventoso, c'ha 8 finali, è un'enorme ventola di raffreddamento interna, no, di quella di vecchia data, sarà il lungo 28 cm questo alimentatore. È come il mio, io ho uno dettaggi, il modello è 1220S, 25 ampere, pesa, marasulti, pesa un trono. È impressionante, però questo è lunghissimo, un bel lungo, e c'ha un trasformatore interno che fa paura, veramente enorme. E poi il circuito davanti, adesso funzionava, lo voglio ripristinare bene. Cazzo, minimo sarà degli anni 70, 80, ma non, anni 90 non ci arriva, con componenti ITT dentro, e poi i finali sono tutti della Motorola, e ha 5 in un lato e 3 dall'altra parte, tutti targati Motorola, no? E poi l'azienda è Apple Italy, è vecchissimo, però già ne vale la pena, oggetti che è impossibile trovare in giro. E dunque con la scusa, con due spicciolini li cambio tutti i condensatori, le resistenze, con gli stessi valori uguali, tolgo una e metto l'altra, poi gliene metto tutte componentistica nuova, diciamo, dai, ecco. Giustamente col tempo si usurano. Niente, una piccola revisionata, dai, un bel restauro li sto facendo. Non ho trovato la morsettiera per mettere i cavi perché a Sassari non ce n'è, dice che devono arrivare, sai, con le rotelline rosso e nero per attaccare i cavi, e adesso vedrò di trovare qualche altra cosa, aspetto che arrivi lì da Fusaro. Ma dove sei arrivato? Sei più forte adesso? Io sono qua all'inizio di via Mendola. Ah, cavolo, sei andato benissimo adesso, Prove 10. Drona, sto usando la mini turbo, è questo piccolo apparato, esce con 3,5 W, c'ha massima e media potenza sono 0,5 W e massima 3,5 W, non di più, antenna magnetica e la mini turbo, tutto lì. Là, c'è un po' di QSB come segnale, 9,5, 9,5, anche 9,10 mi sei arrivato. Da 3 W, va benissimo. Che siano 4, vanno bene lo stesso. Voglio poi cosa pretendi, in macchina poi, un sacco di ostacoli, viaggi qua e là. Comunque, vedo che ci sono molti lavori a Sassari, hanno aperto molti cantieri, mi hanno buttato lì vicino all'ippodromo, non so se c'era una struttura, degli uffici, stanno costruendo a Predanietta, dove c'era prima Paperetta, non so se ti ricordi, quell'azienda che costruiva scope e prodotti di plastica per la casa. Oh, c'è un bel po' di movimento, c'è un bel po' di costruzione, vedo a Sassari. Sì, certo, ma per tutto, sì, per dare lavoro anche. Ci sono di quelle piccole occasioni da chiedere, alla fine girare un po' qua, un po' là, e poi alla fine vedere un po' come anche la minestra, ecco. Tastare sempre il terreno, per non rimanere mai indietro. Si conferma. Certo, è un casino, mamma mia. Chissà, le cose cambiano un po', se no, e chi lo sa, vediamo un po' se è diventato Natalino, Natalino ci sei, non veste, ok. 131 adesso, in mezzo al traffico, mi ha video là, come? Con sulle antennoni. Duval. Io ho preso questi piccoli componenti, a me non passo il tempo, dai. Luce accesa, saldatore, stagno. Sta stagnante. Accendo la radio, se c'è qualcuno, il radioascolto, c'è un po' di musica e piano piano mi assillo a fare questo. A me non mi... queste piccole cazzatine, passi il tempo. E poi sto cercando un display dove abbinarlo a questo alimentatore, no? dove mi scrive sia i watt, no, sia i volt che gli ampere di assorbimento. È Fusaro, non ne hanno, devo guardare su internet, li ho trovati, 13 euro vengono. 13 euro con questi piccoli display luminosi, con diversi colori, no? Me lo voglio mettere nel frontale e così quando l'accendo leggo sia la tensione che l'assorbimento. Però Sansa, cosa trovi? Un cacchio. Vabbè, ti credo. Non so. Ah, lì non ce n'è, vabbè, piccolino del paese. Lui si costretta a scendere a Sassari a prendere materiale così. Casino, mamma mia. Vabbè, ma vuole dire vicino, dai. Io non sei lontano. Pure a me volte, magari, quando devo riparare una cosa. Ci vado, compro componenti, ma ne recupero anche, io uso anche componenti recuperati che sono buoni, non sono da buttare, però anche nuovi li metto, non li metto usati, e ci vado ogni tanto, li compro. Guardati, anche io uso molto materiale di recupero, assolutamente sì, sono che Fusaro, dopo il vecchio giù Fusaro più tempo, non più. Un tipo che si lavora, non l'ho mai visto, boh, un bersante, si risponde male, non lo so, mi chiedi le cose, cosa ne so, proprio me ne preghiamo assoluto, e poi non ti hanno fatto più niente, sei costretto a prendere tutto su internet, è allucinato, no, non è più come prima, guarda, perché ne facciamo un tipo. Perché la Fusaro ha tutte resistenze in ceramica, non ce la pepa, lui ce li appepa lì, e tu non scherza nella teneva radio TV, no? Barattini. Mi ha detto che lui tratta ancora in Island, se io li voglio ordinare, se li ordina arrivano, e lì negozio c'ha un Midland 8001, un Midland 8001 e a quanto pare costeranno 290 euro. Ma è la GBC o la Fusaro? La GBC, c'era pronta a consegna lì in negozio, 290 euro. Lì la pulisce da fianchi, ma è meglio, guarda, se vuoi prendere un baracchino prendi 3.900, superstà 3.900 che ce l'ho io, quanto lo sono adesso, costa una cazzata, con 170, 180 euro te lo compri, ma l'ultimo baracchino omologato e tutto. Beh, tutti fuggite ve ne siete, scappati siete. C'è qualcuno qua? Chi è avanti? C'è un ascolto su 10. Ciao Natalino. Avanti. Ciao Natalino, mi senti? Sì, già ti sento giù, buongiorno. Ciao Natalino. No, stavo provando questo microfono normale, un normalissimo microfono, ma non mi ricordavo se funzionava. Già funziona? Sì, a veglia che funziona. Ma la radio è buona, eh? Se non ti ho detto niente, secondo te, buona o cattiva? È dolce, con lo zucchero e con la marmellata. Così sì che mi calmi i nervi, Giulia, quando fai così io ti temo. vabbè dai, tu non mi crederai, lo sto usando nel K, un microfono normalissimo, vecchio, di tantissimi anni fa. Perché non devo credere, la radio è buona, Ok, è un CT vecchio, però funzionante, dai, adesso stavo rovistando in mezzo alle cose, l'ho trovato e adesso a vedere se funziona, e l'ho voluto mettere qua, nella farla apposta, i collegamenti sono giusti, con lo spezzone, perché io, lo sai, no, nel K ci sono qua 8 punte, dunque avevo fatto lo spezzone, e posso mettere vari microfoni. Infatti. Io devo cercarmi del cavo schermato, devo cercarmi. È in campagna, non ho trovato un microfono normale di quelli di Alan 48, però non è il suo originale, quello nero io sto parlando. Ho trovato uno di quelli addirittura. Ok, ma come lo vuoi tu? Spiralato lo vuoi? Oppure un cavo normale a più punte e basta? Cavo normale, spiralato non me ne faccio nulla, anzi ne tolgo questo che è uno schifo, da questo MB+4. Ok, ma io la verità avevo comprato un cavo ed è grigio, di colore grigio, e dentro ci sono mi sembra una decina di fili, che poi siccome l'avevo fatto lo spessore per il 440, no? Avevo fatto, tu lo sai, lì ci vogliono 8 contatti, e l'avevo fatto, però poi all'altra parte ne ho usato solo 4, ne ho usato per poter adattare ad esempio questo microfono che ho adesso e tutti gli altri, compreso l'MB+4, l'M300, eccetera, eccetera. E infatti gli attacchi una femmina, gli attacchi di quelle che si possono girare, io ce l'avevo e me la devo buscare una di quelle femmine lì che non abbia l'intacco, dove lo blocca. Sì, io ho sempre adottato, ma non da adesso, da tantissimi anni, sempre il sistema della prolunga, l'espressione, diciamo così. Per cui ho sempre fatto girare i microfoni nei vari baracchini, senza mai toccare lo spinotto originale, da come è stato saldato in origine. E mi sono sempre trovato bene, a parte il fatto che facendoti la prolunga è anche più lungo, cioè ti puoi muovere meglio e tutto, anziché stare più attaccato all'apparato, ti puoi muovere come vuoi. Per esempio, questo qui ha i contatti alla rovescio di dell'attacco omologato, no? E quindi gli ho dovuto ribaltare i contatti, quelli di sopra a sotto e quelli di sotto a sopra, per farlo funzionare, perché questo ce li ha alla rovescio. Sì, sì, lo so, non sono tutti uguali, in effetti non sono tutti uguali, a seconda del baracchino hanno il contatto diverso dall'altro, ed è per quello appunto che io ho adottato sempre il sistema dello spessore, perché è inutile stare a cambiare i contatti di uno spinotto originale, saldato in maniera originale come nasce, e poi che cosa? Utilizzarlo lì e basta, invece facendo lo spessore, posso far girare e utilizzare tutti i baracchini che io ho, ecco cosa intendevo. Infatti quello nuovo io non lo posso usare perché c'è lo spinotto a 8 diretto per quell'altro apparato omologato che ho, e quindi quell'altro non va bene, gli devo mettere lo spinotto a 4, solo che adesso non so i contatti come sono per farlo omologato quell'altro MB4, perché c'ha lo spinotto a 8. Ho capito Natalia, ma te lo sto dicendo, anche il 440 ha lo spinotto a 8 contatti. Io ho usato un cavo che ha una decina di cavi e non è grosso, non è per niente grosso, è appena però più grosso dell'RG58, e ci sono 8 fili, no, 8, 10 fili, o anche 11 o 12 forse, adesso non me lo ricordo bene, e di questi 8, dalla parte dell'entrata del 440 li ho saldati tutti e 8, dall'altra parte poi ho tagliato quelli che non mi servivano e ne ho utilizzato solo 4, Natalì. È così che ho fatto io l'adattamento per questi microfoni. E infatti conviene a fare lo spezzone, ad esempio, e col cavo bello schermato. Adesso questo microfono vecchio che ho io lo prendo e lo rimetto a nuovo. Questo è il vecchio mio, lo sai quanti anni ce l'ho questo qui? Sì, sì, ho capito Natalia, è appunto così, io ho sempre fatto così, per cui non è vero motivo perché debba cambiare il sistema, che me lo fa fare a me a stravolgere lo spinotto originale, quando io se io ho un microfono ed è per un determinato baracchino, se io cambio contatti per quel baracchino non va più bene, e magari va bene per l'altro che ho cambiato i contatti, ma è una cosa assurda fare una cosa del genere. Invece mi sono fatto lo spessore per i vari baracchini senza mai toccare quello del microfono, in modo che io quel microfono lo faccio girare su tutti i baracchini che ho. Ecco come ho fatto, mi sembra un ragionamento più che logico. E te credo. A Rusai giù che non si sono riusciti a piazzare la parabola. Dice che non c'è verso qua. Te l'ho detto l'altro giorno, la casa di un professore che ci stava dicendo tante di quelle stronzate, che è una bravissima persona in verticale, quando al malattino si trasforma, e lo capisco per quale motivo. Comunque, a parte questo discorso, io te l'ho detto, quella parabola, se tu la vuoi far funzionare, piazzala all'angolo della casa, all'angolo della strada, di Corso Trinità, piazzala lì, in modo che da lì lo puoi orientare a tuo piacimento. Nella stretta dove sei tu, non ci riuscirai mai ad avere il segnale, perché è vero che il segnale prende anche da terra, ma se non c'è la condizione per poterlo prendere il segnale, non ci riuscirai mai. Tu vai, dai retta a me, prendi una scala, te la metti nell'angolo della casa, nell'angolo della palazzina, come te la vuoi chiamare, proprio di via di Corso Trinità, e l'attacchi lì, l'attacchi, e vedrai che poi prendi il segnale, perché la parabola così la puoi regolare come ti pare e ti piace, 13 gradi a sud, 45 gradi di inclinazione, eccetera eccetera, per cui vedrai che riuscirai a farlo. E vabbè, non mi interessa più tanto, le antenne me le hanno lasciate, è salito uno, no? Io l'ho fatto in previsione che mi staccassero le antenne mie TV. È salito uno e ha cambiato un'antenna dove c'è l'antenna mia, no? Una che c'era già sotto. Però le mie le ha lasciate, capito? A chi di passi che sei in filmadro, padrono di casa e di non gliele tocchi, mi se non lo denuncia quello, gli avranno detto che lei non le può toccare, perché l'antenna è già preesistente da chissà quanto. Infatti io ho giocato un burro di fotografia come è preesistente l'antenna, non so come qui. Eh beh certo, è un grido. Poi se tu vedi che lui è sul tetto lavorando sull'antenna tua, tu gli scatti una fotografia mentre lui è sul tetto, e la buia in cammino sa contare barrio, così si dice a Sassari. No, ma bastano le fotografie che ho già fatto col teleobiettivo. Se manca un'antenna o mi tagliano il cavo, sono loro, perché solo loro possono accedere dove c'è l'antenna, capito? Sì, sì, ho capito, dai, capito, devo ciavallare. Loro si devono mettere in testa che devono farsi l'impianto come si deve, se no peggio baede, mai che si vedano. Sì, ma uno è salito e ha cambiato un'antenna, ha tolto una di quelle vecchie, no, che c'era da sotto, e ne ha rimesso una nuova dello stesso tipo. Evidentemente avrà cambiato l'amplificatore, i cavi e tutto, per non essere disturbato dal baracchino. Capitola, e cos'è giù il problema? Io l'ho visto un tecnico lì che ha fatto quel lavoro lì. Ero sotto proprio per vedere se toccava le antenne mie. Se lui si permetteva di staccare l'antenna mia, gli chiamavo subito i carabinieri, immediatamente. E te lo credo, caspita, cos'è? Non è, uno non si può azzardare, quello lì è violazione di cosa altrui, ma scherzando, sai, non si può, non lo puoi toccare nella maniera più assoluta. Allora dunque quello avrà risolto il problema, magari c'è l'altro pure, l'altro vecchietto, che quello è quello che ti rompe di più le scatole, magari quello che ha cambiato l'antenna ha tutto sistemato, soprattutto se ne ha tolto l'amplificatore, perché l'amplificatore non ci vuole nella maniera più assoluta, non ce n'è bisogno, perché il segnale è talmente forte che entra benissimo, però se viene amplificato, soprattutto con un amplificatore che ha poco affidamento, e allora la discussione diventa ancora più complicata. Ecco come è nata lì. No, ma qua arriva basso il segnale, ce l'ho anch'io l'amplificatore sull'antenna, capito? L'hai, se io stacco l'alimentazione qua, ti faccio vedere che sparisce il segnale. Il giorno che ci vediamo di nuovo su VD deve essere amplificata per forza, non entra il segnale qua, no. Siamo coperti, deve essere da qualche maledizione, non lo so. Ho capito. E vabbè, comunque dipende anche dal fatto come è regolato l'amplificatore. Se tu l'amplificatore lo metti ad un hanno ad un livello di guadagno alto, e allora il discorso lo si danneggia ancora di più. L'amplificatore si deve regolare in maniera giusta, che deve esserci un compromesso tra il trasmettitore e il ricevitore, in questo caso il tuo è quello è la televisione. Per cui vedi bene che a questo punto ci sono tante situazioni che vogliono regolate, perché no, non c'è niente da fare, il discorso è sempre quello. E poi non ne sono poi così fermamente convinto io che non entri il segnale senza l'amplificatore, perché bisogna vedere anche come tutto il resto dell'impianto, non è solamente l'antenna. Intanto utilizzare un'antenna che abbia più dB di guadagno, l'antenna solo, non amplificatore. Praticamente un'antenna, anziché avere, che so io, 16 dB di guadagno, ne puoi utilizzare una che ne ha 24, tanto per essere chiari. In questo caso qui guadagni l'antenna ma evitando l'amplificatore. Insomma, ci sono tante cose. Io ho fatto 12 anni l'antennista o Natalie e non so come funziona, futtidini. Anche io lo so, infatti le mie sono ad alto guadagno le antenne, e con tutto che ho l'amplificatore anche. Però non disturbo io, hai capito cos'è il discorso? È attaccato a quel palo lì di quel palazzo, però io schiaccio la portante e ti faccio vedere che non gli faccio niente alla mia televisione, nulla. Sì, ma ci credo, io ci credo a quello che mi stai dicendo, certo che ci credo, ci mancherebbe altro, non sei mica un bambino, no? E poi ci conosciamo una vita, figurati se io metto in dubbio le tue parole, ma nemmeno per idea, non me lo sogno nemmeno di mettere in dubbio le tue parole. Per cui, però ripeto, ci sono delle cose che basta uno o nulla, soprattutto a livello oggi di digitale terrestre, uno o nulla, proprio per avere un vedi o non vedi. Ecco com'è, non è come una volta che c'era l'analogico, magari entrava lo stesso, vedevi un po' di vischio, tutte queste cose qua, e ti dava a campare lo stesso. Oggi no, o va bene o non va bene, non c'è alternativa, no, o in un modo o nell'altro. Ecco qual è il discorso, Natalia. Eh sì, Giulio, infatti io non ho piazzato le vecchie antenne che si usavano prima, io ho piazzato quelle per il digitale terrestre, sono totalmente diverse e le ho pagate anche un sacco di soldi. Ho comprato roba buona, io ho comprato l'amplificatore buono e tutto, e non gli faccio niente, nulla. A chi ti sparisce subito lo schermo se gli fai qualcosa al digitale oggi? Questo qui ha cambiato un'antenna adesso, questo tecnico mi gli ha messo un'antenna dello stesso tipo, di quelle vecchie. Non è più vecchio. Anche se nuova. Io non so fino a che punto gli sia convenuto a mettere quell'antenna lì, dato che abbiamo il digitale terrestre e che fra un po' non vedranno niente se non hanno le televisioni adatte. E lo so, poi ci sono anche tanti altri motivi, anche a livello di TV, ci sono quegli apparecchi che entrano anche il segnale di una mosca che gli passa vicino, per dire, no? Nelle medie frequenze, una volta erano così, se uno ha un ricevitore scarso, filtrato in maniera così, non è chiaro che può avere anche quel problema lì, perché dipende anche da questo tipo di sistema, dalla media frequenza anche del televisore. Ci sono televisori che hanno una media frequenza che non è per niente selettiva, che anche se passa un uccellino vicino all'antenna vedi l'interferenza creata da un uccellino, per dire, no, non so se riesco a spiegarmi cosa intendo dire. Per cui, ripeto, ci sono tante, le cause sono tantissime, non una, tante.